comprare risparmiare ascolta due di denari come Assa e pure la Rosciani. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Caccia, prima ti torno a lei. Lo sai, per questo stella starei. Buongiorno Deborah, vorrei costituirmi. Non è colpa di Marco Lombardo questa... Anche perché questo lui queste canzoni manco curioso. Se ne ricorda. No, manco era nato, beato sì, lui. Umberto Tozzi. Tra l'altro torna in concerto con Raff a breve. Io sono andata anche a vedere l'anno scorso, chiusa parentesi. Se volessero anche offrirci un biglietto, noi non è che ci offendiamo. Ovviamente ce lo consegnano tramite un corriere di Amazon. Ah, non, ne parliamo poi non di Amazon. Oggi, perché scioperano, non ne oggi. Ne parliamo. Allora, no, sono stato io che ho detto, ma dai, prendiamo quella canzone un po' così, d'antan, di Umberto Tozzi, in cui lui... ripete appunto questo scivola. Sì. E che poi tra l'altro è stata anche recuperata adesso da una nota compagnia telefonica per commentare ad esempio al Festival di Sanremo passavano sempre questi spot. Perché? Perché un tizio è scivolato qui a Milano davanti a un condominio su una lastra di ghiaccio. Esatto, capita che quando nevica appunto si formino delle lastre di ghiaccio un po' ovunque. Può capitare anche che di fronte alla porta d'ingresso del nostro condominio ci sia questa bella sorpresa. Oh, allora, la questione se la pulizia... Si è fatto e male, quindi... signor? Signor, si deve essersi fatto male perché è arrivato fino in corte d'appello addirittura, neanche se ha contato il primo grado. Allora, la questione è, ma chi deve tenere pulito davanti al condominio sul marciapiede? Ah. Spetta al comune o spetta al condominio? La questione è sub iudice, come si dice, cioè deciderà il giudice. Anche la Corte d'Appello di Milano effettivamente, e lo riferiva ieri sulle 24 ore nelle pagine Norme Tributi, scusami, l'altro ieri nelle pagine Norme Tributi che mi auguro tu abbia letto religiosamente. Te l'ho detto io che dovevamo recuperare questa notizia, non ti ricordi che l'ho cerchiata e tu eri tutto contento ieri? E allora ha detto la Corte d'Appello, essendoci un regolamento comunale che prevede l'intervento del condominio, facciamo che il condominio deve curarsi, cioè, del marciapiede davanti. Il signor condominio. Nella persona del portinaio oppure qualcun altro, il consigliere di condominio o l'amministratore di condominio. Il condominio avrà un'impresa incaricata, qualcuno incaricato delle pulizie e quindi questo qualcuno o qualcosa, quale impresa dovrà occuparsi anche della pulizia, della corretta pulizia del marciapiede antistante. Quindi così. Si è chiarita così, la faccenda. Così ha chiarito la Corte d'Appello. Però c'è sempre il dubbio perché il codice della strada, ad esempio, te lo potrebbe dire Maurizio Caprino, dice che la custodia del marciapiede invece spetta al comune che ne è ente proprietario. Esatto. Allora, nell'attesa di capire qual è, di chi è a carico la responsabilità appunto di gestione del marciapiede congelato, io farei attenzione a dove mettiamo i piedi, perché qua non si sa mai poi chi deve indennizzarci nel caso capiti il peggio. Certo che se poi ci imbattiamo in uno scivolone del fisco, allora qua dobbiamo risalire ai sumeri del fisco italiano. Allora, alla signora Ilor. Sì. La signora Ilor, e questo è stato veramente, sono tornato un po' giovane leggendo quanto ha scritto l'amica e collega Franca De Ponti lunedì sul Sole 24 Ore. Sì, però comunque è stata abrogata nel 98, io ero già nata, Marco Lombardo pure, per cui non è che stiamo proprio parlando, diciamo, del facevate codice... la scuola primaria, come si dice. Sì, certo, ero già a Milano e lavoravo già abbondantemente comunque dopo un po' di Ilor anni. A beneficio degli ascoltatori più giovani e per la memoria, le dolci memorie, si fa per dire, degli ascoltatori diversamente giovani, l'Ilor è un'imposta, era l'imposta locale sui redditi. Veniva applicata su redditi di capitale, redditi di lavoro, redditi fondiari. Ti ricordi è tutto? Stata, però, è stata in vigore dal 1974 fino al 1998, quando, arrivando l'IRAP, con un decreto legislativo che venne varato proprio a fine del 97. L'imposta regionale sulle attività produttive. Bravissima. Guarda, neanche mi dai ho letto. Un sacco di soddisfazioni. L'Ilor venne, come dire, abrogata e assorbita anche come tipo di gettito. Benissimo. Nella neonata IRAP. Perché l'abbiamo riesumata? L'hanno riesumata dei signori di Torino. No, noi non l'avremmo riesumata, anzi ce la saremmo dimenticata volentieri, però c'è stato un signore che ha ricevuto una cartella perché gli hanno chiesto il pagamento di 25.000 euro di Ilor, tieniti forte, del 1975. Sì. però non era proprio contestata a lui, ma al suo papà, che è morto nel frattempo nel 1994. Esattamente. Allora, prima domanda: ma non esisterebbe uno statuto del contribuente che imporrebbe che il fisco non debba recriminare delle pendenze che risalgono praticamente alla scoperta dell'America? Allora, guarda, con buona pace delle questioni di prescrizione, quella di cui si discute però è penale, nel penale, non nella tributaria. Qui cos'era successo? Che avevano contestato questo mancato pagamento di Ilor al contribuente De Cuius, per dire, certo, padre di questo signore, il quale aveva peraltro fatto ricorso dicendo: no, guardate che non è dovuta. La cosa si era trascinata, era arrivata dopo il decesso del contribuente a cui veniva contestata a uno dei suoi figli, non a quello a cui è arrivata adesso, ma a un fratello. Questo fratello aveva rinunciato all'eredità, quindi aveva detto: sentite, io non voglio saperne niente, ormai le cose sono andate così, chi ha dato, chi ha avuto, però il fisco, in, come dire, con questi atti aveva interrotto la prescrizione. E allora si è andati avanti, e adesso l'Agenzia delle Entrate è andata a prendere l'altro fratello che mai era rientrato nella vicenda. È meglio essere figli unici in certi casi, ma mi pare che il tutto sia arrivato alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Questo signore ha dovuto adire la Commissione Tributaria Provinciale, anche se in effetti sarebbe stato evidente, è una cosa di quelle che si dovrebbero rimediare in autotutela, cioè uno chiama sostanzialmente l'ufficio e dice: scusate, le cose stanno così e così, vi siete sbagliati, annullate questo provvedimento. Ma il fisco, pur di non ammettere che ha torto, va avanti fino allo sfinimento. È dovuto andare alla Commissione Tributaria, la quale ovviamente ha constatato che il tutto era molto bello, per così rinfrescare la memoria. È stato un tuffo nel passato di cui io veramente ringrazio soprattutto la collega Franca De Ponti, ma di cui davvero fiscalmente parlando non si sentiva il bisogno. Beh, insomma, sarà stato felice l'avvocato che ha seguito tutto ciò, ecco, l'unico che ha giovato di questo intoppo fiscale. Allora, però, gli ascoltatori sanno molto bene che oggi è mercoledì e noi abbiamo un impegno fisso e che rispettiamo anche oggi, che è quello di occuparci di lavoro. È un tema che abbiamo un po' affrontato, ma io credo che dovrà essere affrontato in maniera quasi costante, perché c'è tutto il grande tema della sostenibilità, dell'economia circolare, che offre molte opportunità professionali. E allora, siccome molti non le conoscono, noi oggi rifaremo una carrellata, un po' come abbiamo fatto in una puntata precedente quando abbiamo presentato il libro dell'amica Tessa Gelisio, 100 green jobs per trovare lavoro. Oggi ritorniamo su questo argomento perché un affresco molto completo e molto interessante lo ha fatto il Sole 24 Ore lunedì, e quindi noi oggi vi riproponiamo anche questa accuratissima indagine di professioni emergenti, anche professioni del futuro, ma direi che sono ormai assolutamente nel presente, quindi dobbiamo assolutamente prepararci ad accogliere queste opportunità. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms e whatsapp. Parleremo di un vero e proprio atlante dell'economia circolare, nuove professioni, nuovi lavori, ma anche lavori di tradizione, non so, anche l'avvocato, per dire una professione. C'è l'ecoavvocato oggi. Deve essere, come dire, esperto, versato, preparato sulle questioni dell'economia circolare. Non è una così verniciata di verde, è proprio che stanno cambiando le modalità produttive e di consumo, e quindi tutte le professioni sono interessate da questo cambiamento. È molto importante per chi si affaccia adesso sul mercato del lavoro, ma anche per chi già lavora e magari cerca qualche possibilità diversa. Prima di tutto ciò c'è sicuramente il giornale radio del risparmio, ma ti anticipo anche che un signore che si firma, io per farlo riconoscere citerei anche il cognome, perché si firma per cognome De Grandis: la pulizia del marciapiede spetta al condominio, il portinaio all'indennizzo al metro quadro per la pulizia. E chiudiamola definitivamente qua stamattina. Va bene, io trasferisco il tutto, guarda, in Cassazione. E, anzi, parlerò con... Investiamo gli ermellini anche adesso. Sì, sì, voglio la Cassazione a sezioni unite sul marciapiede. Non veniamo un goccio di pioggia da mesi, figurati la neve. Adesso ci manca pure che portiamo alle calende greche questa faccenda. Risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Voglio andare a vivere in campagna. E allora, tutte le famose braccia rubate all'agricoltura adesso sono braccia di ritorno verso l'agricoltura. Tante opportunità per i giovani che possono diventare anche proprietari terrieri con degli incentivi anche interessanti. Sì, perché oltre 10.000 ettari di terra dal mezzogiorno di oggi sono in vendita all'asta in Italia, sono per i giovani, poi c'è anche una corsia preferenziale, ci sono mutui trentennali al 100% e sostegni specifici per l'imprenditoria agricola di chi ha meno di 41 anni. Questi appezzamenti sono della Banca Nazionale delle Terre Agricole, che è stata varata con la finanziaria del 2016 e serve a rimettere in circolazione, a rendere di nuovo coltivati i terreni pubblici in stato di semiabbandono. L'ISMEA... Se io voglio fare proprio una puntata solo su questo, Mauro, mi è venuto in mente adesso questa curiosità, che ne dici? Ma mi sembra una grandissima idea, segniamo già per un prossimo mercoledì. L'ISMEA, se ci stanno anche ascoltando, possono contattarci, siamo volentieri a disposizione per parlare di questo sbocco occupazionale con delle appunto condizioni di favore specialmente per i più giovani, fino, ripeto, con sostegni ad hoc per gli under 41 di età. L'obiettivo naturalmente è quello di avere un ricambio generazionale per chi lavora, chi si occupa di agricoltura. Allora, per fortuna che la fornitura di Elisir di Mauro Meazza, che io avevo ordinato su Amazon, è già arrivata la settimana scorsa. Non cominciare anche tu, già se Leonardo perché che si è ordinato in questi giorni, oggi a me non mi avrebbero consegnato proprio un bel nulla. Ecco, perché incrociano le braccia, perché i driver di Amazon oggi incrociano le braccia, ma lo fanno in Lombardia. Ne abbiamo già dato notizia ampia nel corso dei nostri giornali radio, ma le consegne appunto di questo colosso dell'e-commerce sono a rischio oggi in questa regione per lo sciopero indetto dai sindacati di categoria, una giornata di sciopero dei driver impegnati nelle consegne dell'ultimo miglio nella regione appunto. Sono stati organizzati anche dei presidi per bloccare l'accesso a 3 depositi di smistamento. Questo è uno sciopero che è stato definito a sorpresa, evidentemente deciso proprio in questi ultimi giorni, e coinvolge tutti i lavoratori della filiera Amazon ed è finalizzato a chiedere l'applicazione degli accordi siglati lo scorso anno. Oggi in Lombardia verranno così bloccati, è iniziato questa agitazione dalle 7 di questa mattina fino alle 17, i depositi di Amazon Logistica di Origgio in provincia di Varese, Buccinasco vicino Milano e quello di Burago, Monza e Brianza, e in attesa di risposte positive i sindacati hanno fatto sapere che è già stata indetta un'altra giornata di sciopero, non si sa quando, sarà anche questa a sorpresa. Invece io vorrei parlarti di energia, un tema a noi caro, molto le bollette caro. Noi ce le occupiamo spesso. Presidente di Herrera, dobbiamo richiamarlo, lui viene sempre molto volentieri a Due di Denari, Stefano Besseghini. Questa volta però non ti voglio parlare, almeno inizialmente, di Herrera, ma di un'altra autorità, che è l'autorità garante della concorrenza, l'antitrust, la quale è intervenuta sulla vicenda del passaggio, dell'abbandono del mercato di maggior tutela. Allora, come sanno tutti i nostri ascoltatori, perché lo diciamo spesso, questo termine per cui non si potrà più avere il mercato di maggior tutela è stato prorogato al 1 gennaio del 2022. Quindi se vi chiamano per dirvi dovete assolutamente passare al regime di libero mercato, ditegli che c'è tempo fino al 1 gennaio del 2022. Però non oltre, dice l'antitrust, perché l'autorità garante della concorrenza ha detto va bene, facciamo questa ennesima proroga, ma poi per favore basta così. Anche quante perché ne hanno fatte? Almeno 2? Che me ne ricordi io sono 3, però questa qui dovrebbe essere la 4ª, però posso sbagliarmi anche per difetto probabilmente. E ha detto l'antitrust, questo termine che avete fissato adesso 1 gennaio 2022 deve essere inderogabile. Peraltro appunto Herrera aveva anche ha messo a disposizione sul suo sito una serie di comparatori. Lì adesso si tratta un po' di fare ordine tra i vari fornitori, che sono diverse centinaia. Ma se la questione non mi fosse ancora completamente chiara, oltre a scrivere a due di denari @radio24.it e interpellare le associazioni dei consumatori oltre che a noi, potete rivolgervi anche allo sportello di Herrera e al loro call center, che risponde al numero 800 166 654, uno sportello che compie ben 10 anni. In 10 anni sono stati dati tanti consigli, tante informazioni gratuite e gratuita assistenza a tutti quei consumatori nei settori elettrico, gas e negli ultimi anni anche servizio idrico integrato e rifiuti. Uno sportello che, vi do qualche dato, ha praticamente intanto recuperato 42 milioni di euro a favore dei dei consumatori che si sono rivolti appunto ad ARERA per reclami, procedure speciali e servizio di conciliazione, è più di 5 milioni le chiamate ricevute, con una media giornaliera di 2.000, circa 700.000 le problematiche gestite, il livello di prestazione ritenuto soddisfacente, c'è anche una misurazione della qualità del servizio, sarebbe al 96% appunto da parte degli utenti. Ad oggi sono anche 42.000 le conciliazioni gestite e il 96% per l'appunto è dei clienti, è soddisfatto degli utenti, di noi consumatori, è soddisfatto del servizio ricevuto. Chissà se lo potremo dire nei prossimi giorni anche della conciliazione che parte con TIM. Eh sì, perché effettivamente TIM ha con le associazioni dei consumatori avviato un nuovo protocollo di cooperazione che è stato firmato appunto dalla compagnia telefonica con 6 associazioni di consumatori, è aperto, segnalano ad altre adesioni, con tavoli di confronto trimestrali su novità commerciali, innovazioni tecnologiche e anche un canale di gestione reclami. Quindi insomma, cercare, mi pare di capire, Deborah, anche di mettersi alle spalle la vicenda annosa oramai della bolletta 28 giorni che, diciamo così, tanti lutti addusse agli achei. Non è stato proprio un bel momento, non solo per TIM naturalmente, ma per molti fornitori. Il protocollo di cooperazione è stato firmato ieri a Roma dal amministratore delegato di TIM Luigi Gubitosi, dai rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Cittadinanza Attiva, Codacons, Federconsumatori e Udicon. Obiettivo: potenziare il rapporto di fiducia con le associazioni dei consumatori. Tra l'altro questo è un protocollo che dà anche il via a tavoli di confronto trimestrali fra l'azienda e le associazioni firmatarie, che si confronteranno dunque con puntualità con il gruppo e si farà costantemente il punto su pratiche gestite e sul grado anche di soddisfazione degli utenti rispetto a questa nuova pratica di conciliazione, questo rafforzamento della conciliazione che per la verità già esisteva con questo gruppo. Che si fa? Si va a sentire Dillo a Due di Denari, perché poi preme il tema del giorno: posti di lavoro nell'economia circolare. Ma prima DDDD. Dillo a Due di Denari. Ma più che incentivare o invogliare le donne rinunciando al re, a una parte di pensione, a lasciare prima il lavoro, aiutiamole a rendergli la vita più semplice quando hanno dei figli, che siamo indietro anni luce in tal senso rispetto agli altri paesi. E mi sembra impossibile che nel 2020 nessuno non abbia fatto una politica trasversale, che sia di destra, che sia di sinistra, ma perché queste donne possano fare figli tranquillamente e li possano crescere. Pensa che stamattina da Maria Latella e Simone Spezia c'era Luca Mercalli che invece ha detto: qua a furia di far figli nel mondo si stanno consumando tutte le risorse naturali del pianeta, quindi smettetela. Ma che dobbiamo fare qua? Non c'è mai nessuno contento rispetto a come... Qua se noi non le facciamo in Italia le pensioni veramente saranno un problema, quindi dipende da come guardi l'argomento. Se lo guardi dal punto di vista ambientale è un problema, se lo guardi dal punto di vista della sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale del paese di riferimento, il fatto di non far figli è una grossa rogna, oserei dire. Non vorrei che nel dubbio si rimane così in questa inazione, si rimanga così in questa inazione. E guarda, facciamo così, andiamo a vedere, andiamo a vedere se nell'economia circolare c'è qualche opportunità, anche qualche trattamento migliore sul lavoro e una parità maggiore. Chissà, dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo lavoro? Allora, salutiamo intanto Antonello Cherchi, il Sole 24 Ore. Antonello, benvenuto, ciao e grazie di essere di nuovo con noi. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Il curatore di questo accuratissimo rapporto andato appunto in edicola con il Sole 24 Ore lunedì, e che è una mappatura molto esaustiva, molto interessante rispetto alle nuove professioni della cosiddetta economia circolare. Poi salutiamo Alessandra De Santis, in questo caso non sono stata molto galante, ma tra donne ci si capisce, non abbiamo bisogno di tutte queste formalità. Coordinatrice dell'Atlante Italiano dell'Economia Circolare. Che voglio sapere subito che cos'è, dottoressa De Santis, buongiorno. Buongiorno a voi in studio e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, l'Atlante dell'economia circolare è uno strumento di un progetto più ampio dedicato appunto alla divulgazione di questa tematica, che il progetto si chiama Storie di economia circolare, e attraverso il quale appunto vogliamo non solo far conoscere ai cittadini italiani quali sono le opportunità, sia come attenzione al mondo del lavoro, ma anche come consumatori, le opportunità appunto dell'economia circolare, ma anche alle aziende stesse di mettersi in rete tra di loro e quindi conoscersi a vicenda, cosa che abbiamo visto l'Atlante aiuta a fare. Mm-hmm. E quindi in questa Atlante vengono censite, sistematizzate e raccontate le esperienze che man mano troviamo girando appunto per l'Italia. Ma è anche un documento cartaceo oppure vive solamente online, quindi interattivo? Che formato ha questo Atlante? È interattivo, è una mappa con tutte le icone distribuite su tutto il territorio nazionale, divise per categorie merceologiche, e quindi è possibile fare la ricerca attraverso il filtro delle regioni o il filtro della categoria merceologica o abbinare anche due filtri. Quindi posso cercare un'azienda che si occupa di tessile magari in Veneto o in Toscana. Perfetto. Okay. Non esisteva una mappatura di questo tipo, dottoressa De Santis? No, nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorarci non c'era ancora nulla online, c'erano dei report, magari, però una mappa interattiva con così tante esperienze, che poi quando l'abbiamo lanciata ne avevamo già 100 sull'Atlante, ancora non c'era. L'abbiamo lanciata nel 2017, quindi abbiamo iniziato a lavorarci nel 2016, è un po' che siamo dietro, facciamo scouting. Molto bello, mondo. Intanto nel frattempo l'ho aperto ed è veramente... Nel frattempo naturalmente Deborah lo stiamo mettendo dentro nel Twitter. Certamente. Sul nostro account 2 di Denari, mi raccomando, è scritto questa volta col numero. Antonello, nella mappatura che hai curato insieme ad altri colleghi peraltro... Insieme a Valeria giusto. Uva, che sì. dà un bocca al lupo perché è caduta preda dell'influenza. Oh, mannaggia. Spero che non sia niente di preoccupante, insomma. No. Normali mali di stagione. Banalissima influenza. Che allora, influenza in questo periodo, bisogna sempre andarci molto cauti. Auguri a Valeria Uva. Antonello, questa mappatura che tu hai curato con altri colleghi fa emergere, diciamo, due cose, diciamo già in apertura. Nuove attitudini per professioni già esistenti e nuove professioni che l'economia circolare, poi spiegheremo meglio nella seconda parte della puntata cosa intendiamo con questo termine perché è ancora non così familiare, dicevano professioni che vengono solo adesso alla luce. Com'è la percentuale secondo te dalla mappatura che avete fatto? Ma guarda, è difficile stabilire una percentuale perché è un campo totalmente nuovo. Infatti ci siamo avventurati in questo monitoraggio che comunque ha riservato delle sorprese. Quello che abbiamo capito è che, come dicevi tu, ci sono delle professioni emergenti, quindi dei profili totalmente nuovi che si stanno formando, alcuni sono già abbastanza consolidati, ma altri stanno, come dire, prendendo le misure. E poi ci sono profili che invece gemmano dalle professioni tradizionali, cioè il commercialista che si dedica ai bilanci sostenibili, il biologo che si mette alla ricerca delle nanoparticelle o fa il nutrizionista, il geologo che si occupa di geotermia, quindi le professioni tradizionali restano con il loro background ma cercano di adattarsi a quelli che sono quelle che sono le prospettive dell'economia circolare. Allora, ci fermiamo qualche istante perché, cara Deborah, è il momento che tu è ci aggiorni. È il mio grande momento. Eh sì, per favore, le borse. Bravi, bravi. Di denari. Palato, lastra di ghiaccio? Ma dove era questo? Sul Monte Bianco? Che non si vede neve, che sono anni, ma... Caro Mauro Meazza, dovrebbe ricordare che l'ILOR era una tassa che si pagava al netto dei costi, invece l'IRAP è la tassa che si paga sui costi e non è proprio la stessa cosa. Gentile signora Rosciani, ma perché continua a nominare quella nota piattaforma di commercio elettronico? Insomma, comincia a diventare un po' poco credibile. Grazie. Anche fare dei figli ed educarli meglio, anche dal punto di vista del rispetto della natura, sarebbe un passo avanti. Vabbè, oggi almeno abbiamo fatto 50-50, non ce l'hanno solo con me, ma pure un po' con te. Potevi essere un po' più preciso su Lillor? Da te mi aspettavo. Sono stato superficiale. Dei dettagli un po' più professionali. Non ho neanche ricordato l'aliquota, era ecco. 16,2%. Lo faccio ora e faccio ammenda, davvero. Sì. No, ma devo dire, questa cosa del Lillor, in qualche modo io credo fa ritornare giovani quelli che come me già si occupavano della materia. Esatto. Nel 1998, quando è stata abolita. Sì. Se posso chiusare così rispettosamente, senza rimpianti però, non nessuno la rimpiangeva. Sai che cosa farò? Ti comprerò il libro sul trapassato remoto fiscale. Ullala. Lo ordino su Amazon e te lo mando e te lo spedisco direttamente in ufficio ma di queste sopra. Queste continue citazioni di questa piattaforma. Perché che se, ha bisogno di noi. Se non certo. la ricordassimo noi, avrebbe già chiuso. Allora, io vorrei ribadire agli ascoltatori che stiamo giocando su questa cosa, non facciamo pubblicità a un bel nessuno, perché questi non hanno bisogno di noi e quindi non si capisce perché non riusciate proprio a mettervi in testa l'ironia con la quale gestiamo questa situazione. Se non la capite, non lo faremo più. Che vi devo dire? Cambieremo tema e piattaforma. Torniamo. Andremo su Alibaba, sui cinesi. Guarda, allora facciamo proprio una conversione, così di facciamo una cosa circolare, come l'economia circolare di cui ci stiamo occupando. Abbiamo ricordato la pagina, le pagine uscite lunedì sul Sole 24 Ore che hanno fatto presentato una mappatura delle attività che oramai si devono ispirare all'economia circolare e abbiamo in collegamento Alessandra De Santis che cura questo atlante dell'economia circolare. Tra pochissimo appunto lo trovate anche su Twitter. Dottoressa De Santis, ma come si fa a integrare magari una preparazione tradizionale? Appunto, prima il collega Antonello Cherchi citava il biologo, io avevo ricordato l'avvocato, con i temi dell'economia circolare, perché bisognerà fare dei master a questo punto, se uno già sta lavorando o già ha preso un percorso di studi ben delineato, tradizionale. Sì, sono stati attivati diversi master già in Italia, oppure per chi ha iniziato e si è già avviato con la laurea triennale ci sono anche delle lauree magistrali. Quindi partendo da insomma chi magari è ancora in fase di formazione, direi che per esempio all'interno di una laurea magistrale come può essere quella di biotecnologie o biologia, oppure nel settore appunto dell'agronomia, possono magari indirizzarsi verso una tesi di laurea che possa già portarli su un percorso di ricerca, che può essere sulla ricerca di una bioplastica, di polimeri, della creazione di nuovi polimeri a partire da scarti per esempio della filiera agroalimentare. Quindi diciamo, è possibile già in fase ancora di formazione cominciare a prendere questa strada per professioni molto tecniche come può essere appunto quella del biotecnologo, e assolutamente già questo è un primo step. Poi ci sono dei master che abbracciano dal settore del management, quindi come quello che è stato avviato già dalla LUIS, ma se ne sta avviando un altro nell'università LUIS, che invece è dedicato alle professioni per esempio le professioni legali, quindi partirà adesso dal 2021 ed è appunto dedicato a chi si occupa del settore legale, quindi consulenti legali che potranno affiancare le aziende soprattutto in questa fase di passaggi anche normativi, perché come sappiamo l'Italia dovrà recepire come gli altri stati membri entro questo luglio il pacchetto legislativo sull'economia circolare. Quindi i cavilli saranno molti da interpretare per capire come appunto il proprio scarto magari industriale può essere utilizzato da un'altra azienda senza incappare nel traffico illecito di rifiuti, perché è da pochi mesi che in Italia è iniziato un discorso sull'end waste, quindi sulla normativa, sulla rivedere i rifiuti in chiave di risorsa. Fino a pochi mesi fa era ancora la maggior parte degli scarti, dei sottoprodotti industriali venivano considerati rifiuti e come tali era difficile poterli passare a un'altra azienda, cosa che è fondamentale in ottica di simbiosi industriali, che è uno dei principi cardine dell'economia circolare. Peraltro, Peraltro, sì? Scusi, la interrompo, dottoressa De Santis, questo tema del riutilizzo, io non essendo così, non avendo cominciato a lavorare ieri, me lo ricordo ancora come tema delle materie prime secondarie, era un dibattito degli anni 80 addirittura, quindi vedo che negli anni siamo sempre un po', ci arrovelliamo sempre attorno a questi problemi qua, cioè come fare a costruire un circolo virtuoso, cosa che peraltro non è così inusuale nella filiera produttiva italiana, che io sappia. No, ci sono già molti esempi e poi spesso mi sorprende anche come attraverso il lavoro della mappatura scopro connessioni già attive, perché poi magari un'azienda che si iscrive, chiede di essere mappata dell'Atlante, attraverso il passaparola fa arrivare la notizia dell'Atlante anche agli attori della filiera, e quindi proprio recentemente ho scoperto per esempio che due aziende mappate in realtà già lavorano e gli oli di scarto raccolti da un'azienda vengono poi utilizzati dall'altra, che attraverso il quale che li usa per produrre dei detergenti naturali, quindi ci sono già molte interconnessioni e quindi assolutamente sì. Certo, tornando al nostro problema di partenza, adesso prima della pausa che faremo fra qualche istante, però rivolevo di nuovo una battuta con Antonello Cherchi, che visto che questo è stato anche un tema di confronto nella conversazione realizzata per il giornale con Alessandra De Santis. Le aziende fanno fatica a reperire le appunto professionalità che servono in questo momento per gestire queste nuove problematiche emergenti, così generalizziamo un po' l'argomento, però la quantificazione esatta del fabbisogno è altrettanto difficile da realizzare, vero Antonello? Quindi se dovessimo dare un numero rispetto ai mestieri che adesso vanno soddisfatti, è un censimento abbastanza complesso nonostante tutti gli sforzi dell'Atlante dell'economia circolare. Beh sì, anche perché ripeto è un tema nuovo, cioè è una prospettiva quella che si apre. Non, ovviamente ci sono già degli ambiti in cui la sostenibilità, il tema della sostenibilità in generale, quindi non soltanto quella ambientale, ma anche penso per esempio al welfare aziendale, no? Al benessere dei dipendenti, ci sono appunto ambiti in cui tutto questo già sta trovando applicazione, però ripeto è un inizio quello di cui stiamo parlando, è un principio che in prospettiva dovrebbe, anche grazie ai finanziamenti sia quelli europei sia quelli italiani, anche l'Italia ha messo in piedi un Green New Deal, dovrebbe trovare poi applicazione sempre più estesa, però appunto al momento è uno scenario che certo ancora deve essere riempito per la maggior parte di contenuti. Caselle che devono essere riempite. Allora, sì, aspettate un attimo, noi adesso andiamo al traffico, adesso lo faccio lanciare come tutti i giorni a Mauro, perché non vorrei che il rito non venisse rispettato, poi porta sfortuna, però chiedo sia ad Alessandra De Santis che a Antonello Cherchi di preparare una carrellata dei mestieri che, per i quali adesso sarebbe necessario prepararsi se vogliamo candidarci nel mercato del lavoro che in questo momento ha bisogno di queste professionalità. Allora restate con noi anche quando c'è il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che iscriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Due di Denari. posso anche immaginare che cosa deve fare un tecnico dell'efficienza energetica. Un po' meno, beh, anche l'eco avvocato deve specializzarsi nella nuova legislazione e legata. Soprattutto queste direttive che stanno arrivando, esatto, di cui ci parlava già Alessandro De Santis. C'è però anche il light designer. Caspita, e questo è l'esperto, signore? L'esperto di salubrità indoor. E questi qua devono occuparsi invece di cose che guarda, forse non c'è neanche non voglio il titolo, non il voglio testo. Togliere il privilegio di descrivere queste professioni ai nostri amici di questa mattina. Alessandra De Santis, ci faccia lei una carrellata a piacere dei mestieri più richiesti in questo momento, in questo comparto così affascinante, avvincente e innovativo, se vogliamo. Allora, innanzitutto parto da gli eco designer o anche possiamo chiamarli thinker designer, che devono aiutare appunto a rivedere i processi produttivi, quindi i designer di prodotto, il design anche, diciamo, passare il termine, di un servizio, quindi per renderlo già a monte circolare, perché se come abbiamo fatto fino ad oggi ci interroghiamo solo alla fine di come un materiale può essere, i materiali che compongono un prodotto possono essere riciclati, aggiungiamo un passaggio di difficoltà, invece pensarlo a monte è sicuramente meglio, e questo vale sia per i prodotti che per i servizi. E pensare a un design circolare all'inizio ci permette di allungare anche la vita del prodotto, perché appunto l'eco design ci deve anche pensare come questo prodotto può essere facilmente riparabile, versatile, smontabile, in modo che appunto la vita del prodotto duri il più a lungo possibile, perché appunto l'obiettivo dell'economia circolare è arrivare più tardi possibile allo stadio di rifiuto. Poi abbiamo anche, diciamo, gli ingegneri gestionali avranno un ruolo fondamentale in questo, perché dovranno immaginare una nuova logistica industriale, quindi che minimizzi gli scarti dei processi e dove ci sono capiscono come valorizzarli. Abbiamo poi, come abbiamo detto anche nell'articolo del Sole 24 Ore, ci sono gli architetti che dovranno offrire il proprio know-how alle esigenze del sistema economico circolare, quindi architetti che sappiano immaginare delle case più sostenibili, con materiali più naturali e che abbiano il minore impatto possibile quando vengono poi dismesse. Ci sono appunto gli ecoavvocati, abbiamo appunto invece i biologi, oppure i biochimici, e in particolar modo i chimici dei materiali, quindi chi ha una conoscenza tecnica approfondita dei materiali e può capire come possono essere valorizzati al meglio. Poi mi vengono in mente anche in agricoltura c'è bisogno di esperti di patogeni esogeni e esotici, perché il commercio globale, appunto lo avete scritto insieme, comporta la circolazione diffusa di agenti patogeni come la xylella che ha colpito gli ulivi, per cui bisogna intercettare, ecco, queste epidemie. Anche questo è un termine che è meglio non pronunciare in questi giorni, ma ci tocca. Ecco. Beh, sai Deborah, poi si capisce molto bene dalla microcarrellata, perché davvero le declinazioni sono tantissime, che ci faceva la dottoressa De Santis. Questa circolarità è una circolarità che nasce addirittura dal progetto, cioè prima ancora di pensare, quando si comincia a pensare, immaginare il prodotto o il servizio, si comincia già a ragionare in termini non solo di sua collocazione sul mercato, accessibilità eccetera, ma proprio anche che ne facciamo quando, esatto, questo servizio, questo prodotto arrivano a fine vita, come possono essere reimpiegati, riutilizzati, riducendo gli scarti, riducendo il consumo di energia durante la vita del prodotto, alla fine della vita del prodotto. Noi tendiamo ancora via a concentrarci sull'ultimo gradino di tutti questi percorsi che abbiamo raccontato questa mattina, invece dovremmo cominciare necessariamente dal primo, Alessandra. Sì, assolutamente, diciamo, non dobbiamo più pensare all'economia circolare solo come riciclo, e fortunatamente rispetto ai primi tempi in cui abbiamo iniziato a chiamarla con questo nome, ma è un concetto che in realtà, come dicevo anche prima, è molto vecchio, no? Anzi risale, si iniziava a parlare di economia circolare negli anni 60, poi complice il boom economico è stato forse un po' accantonato questo concetto, il nome non era questo ma la sostanza era la stessa. E poi bisogna ottimizzare i materiali e l'energia utilizzati durante tutto il processo, quindi sarà fondamentale e indispensabile in ogni azienda la figura dell'energy manager, appunto, che dovrà capire qual è la quantità, la percentuale di sostituzione di energia da fonti fossili con quella rinnovabile, ma anche come ottimizzare, efficientare l'uso dell'energia. E sempre se dobbiamo avere uno sguardo olistico su tutto il processo produttivo o di un servizio, sarà fondamentale la figura del mobility manager, perché dobbiamo anche guardare tutta la supply chain, quindi cioè tutta la catena delle consegne, per così dire, la logistica, la distribuzione, quindi anche le flotte aziendali, perché sì, le flotte aziendali, il movimento dei dipendenti, perché anche quello, tutto ciò che riguarda il trasporto e la logistica, ha sicuramente un enorme impatto ambientale, e quindi andare a ottimizzare anche quello sicuramente contribuisce all'economia circolare, andando poi a contribuire anche positivamente su altri tasselli legati agli impatti ambientali. Benissimo, insomma, veramente le opportunità non mancano, bisogna forse cambiare un po' il cosiddetto mindset e capire una volta per tutte che i lavori tradizionali hanno cambiato volto, non sono scomparsi, ma stanno cambiando modalità. Infatti Antonello Cherchi, che ringraziamo, segnalava insieme ai colleghi Valeria Uva e altri ancora che hanno curato questo rapporto che è uscito lunedì sul Sole 24 Ore, ci sono attualmente 37 corsi di laurea del tipo sostenibile, erano 17 le lauree possibili così solo 10 anni fa. Sei fuori tempo massimo, io te lo dico. E allora ringrazio Luciana per le bellissime parole che ci ha mandato, che ha detto al nostro centralino. Grazie Luciana. Grazie Luciana e tutti quelli che stanno scrivendo sulla questione del marciapiede ghiacciato.